Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Le tende del salotto di Windy Corner erano state tirate fino a combaciare, giacché il tappeto era nuovo e meritava di venire protetto dal sole di agosto. Erano pesanti quelle tende, arrivavano quasi a terra, e la luce che ne filtrava era smorzata e cangiante. Un poeta, ma non c'era un poeta tra i presenti, avrebbe potuto citare la vita come cupola in vetro variopinto, oppure paragonare le tende a saracinesche calate a riparo dall'intollerabile fiumana del cielo. Fuori sgorgava un mare di radiosità, dentro lo sfolgorio, pur visibile, era attutito per adeguarlo alle facoltà dell'uomo. Nella stanza sedevano due simpatici personaggi. Il primo, un ragazzo 19enne, studiava un manualetto di anatomia lanciando saltuariamente un'occhiata a un osso posato sul pianoforte. Di tanto in tanto schizzava su dalla sedia e sbuffava e gemeva, giacché la giornata era calda e la stampa minuta e l'umana struttura paurosamente complessa. Sua madre, inoltre, che stava scrivendo una lettera, gli leggeva di continuo a voce alta tutto quello che aveva scritto e di continuo si alzava dal proprio posto per scostare le tende, facendo cadere un ruscelletto di luce sul tappeto, e gli annunciava che erano sempre nello stesso posto. «E dove vorresti che fossero?» ribatté a un certo punto il ragazzo, che era Freddy, il fratello di Lucy. «Sai che ti dico? Mi è venuta una tale nausea che a momenti non reggo più». «Per l'amor del cielo, esci dunque dal mio salotto!» gridò la signora Honeychurch, che sperava di guarire i suoi figli dall'abitudine del gergo dei giovani, prendendo alla lettera le loro parole. Freddy non si mosse né rispose. «Io direi che questa sarà la volta buona», osservò la signora, che aveva una mezza voglia di conoscere il parere del ragazzo sulla situazione, senza però dover ricorrere a suppliche inopportune. «Sarebbe ora. Sono contenta che Cecil le rinnovi la domanda. È la terza volta che ci prova, eh? Speriamo che sia anche l'ultima. Freddy, trovo che ti esprimi in maniera veramente incivile. Non era nelle mie intenzioni», e Freddy soggiunse. «Ma sostengo che Lucy aveva modo di liberarsi di questo grattacapo in Italia. Io non so come le ragazze regolino le loro faccende, ma lei non può avere detto un no chiaro e tondo le volte passate, altrimenti non sarebbe costretta a ripeterlo adesso. Tutta questa storia non riesco a spiegarmi, mi mette proprio a disagio, ecco. Sul serio, caro? Com'è interessante. Ho l'impressione che...» «Lasciamo perdere», e Freddy tornò al suo lavoro. «Ascolta un attimo quello che ho scritto finora alla signorina Weiss. Le dico, gentile signora Weiss...» «Sì, mamma, l'ho già sentito, è una lettera favolosa.» «Le dico, gentile signora Weiss, Cecil mi ha chiesto ora il mio consenso, e io glielo darò ben volentieri, se Lucy lo desidera, ma...» La signora Honeychurch interruppe la lettura. «Mi diverte abbastanza il fatto che Cecil abbia finito col chiedere il mio consenso. Ha sempre sostenuto che non bisogna essere schiavi delle convenzioni e che oggi i genitori non hanno più voce in capitolo, eccetera, eccetera. Ma quando si viene al dunque, non può cavarsela senza di me. E neppure di me. Di te?» Freddy annuì. «Come sarebbe dire? Ha chiesto anche il mio consenso. Quanto è curioso da parte di Cecil!» esclamò la signora. «Perché mai?» domandò il suo figliolo ed erede. «Perché non si dovrebbe chiedere il mio consenso? Che ne sai tu di Lucy o delle ragazze o del mondo in genere? Cosa diamine gli hai risposto?» «Gli ho risposto, pigliatela o lasciala stare. Io non c'entro, non sono fatti miei.» «Però quello che mi secca...» ricominciò Freddy. Quindi si rimise al lavoro, troppo scontroso per specificare cos'era che gli seccava. La signora Honeychurch tornò alla finestra. «Freddy, devi venire anche tu, sono sempre lì.» «Trovo che dovresti finirla di spiare ogni momento quei due.» «Spiare ogni momento? Non mi è forse permesso affacciarmi alle finestre di casa mia?» Ma la signora Honeychurch si diresse di nuovo verso lo scrittoio e nel passare davanti al figlio osservò: «Ancora a pagina 322?» Freddy grugnì e girò altre due pagine del manuale. Tacquero per qualche tempo. Poco discosto, al di là delle tende, non si era mai interrotto il lieve mormorio di una lunga conversazione. «Ecco cos'è che mi secca. Ho commesso una gaffa madornale con Cecil», Freddy inghiottì nervosamente. «Come se non gli bastasse il consenso che gli ho dato, ossia ho detto per me fa lo stesso. Insomma, come se questo non gli bastasse, ha anche preteso di sapere se non ero fuori di me dalla gioia. In parole povere voleva dire, se lui sposa Lucy, non sarà una manna piovuta dal cielo per lei, nonché per tutto Windy Corner?» E ho dovuto rispondergli per forza. Ha detto che la mia risposta sarebbe servita a rafforzare la sua posizione. «Spero che questa risposta tu l'abbia ben ponderata, caro». «Ho risposto no», disse il ragazzo digrignando i denti. «Ecco, e adesso arrabbiati quanto ti pare. È stato più forte di me. Bisognava che lo dicessi, bisognava che dicessi quel no. Lui non avrebbe mai dovuto farmi una simile domanda». «Sbarbatello ridicolo!» gridò la signora Honeychurch. «Ti credi tanto sincero e intemerato, ma la verità è che sei di una vergognosa presunzione. Ti immagini che un uomo come Cecil tenga il minimo conto di ciò che ti esce di bocca? Spero che ti abbia mollato due schiaffi. Ma come hai avuto il coraggio di dire quel no? Via, mamma, calmati. Ho dovuto dire di no dal momento che non potevo dire di sì. Ho cercato di ridere come se avessi parlato per scherzo, e siccome Cecil ha riso anche lui e poi se n'è andato, può darsi che non abbia dato importanza alla cosa. Però sento di averla fatta grossa. Comunque sta zitta, per piacere, e lascia un poveraccio al suo lavoro». «No, non starò zitta», disse la signora Honeychurch con l'aria di chi avesse già valutato le circostanze. «Sapevi com'erano andate le cose tra loro due a Roma? Sai perché lui è venuto qui da noi e ciò malgrado lo insulti di proposito e tenti di buttarlo fuori di casa mia?» «Ma che!» protestò Freddy. «Gli ho semplicemente lasciato capire che non mi piace. Non lo detesto, ma non mi piace. Quello che mi preoccupa è che vada a rifischiarlo a Lucy», e lanciò una torva occhiata alle tende. «A me invece Cecil piace. Guarda un po'», disse la signora Honeychurch. «Conosco sua madre, e poi è un buon giovane, intelligente, ricco, ben imparentato e non serve che tu prenda a calci il pianoforte. È ben imparentato, e torno a ripeterlo se vuoi, è ben imparentato». Qui si interruppe come se stesse ricapitolando mentalmente il panegirico, ma la sua faccia rimase insoddisfatta. «E ha bei modi», soggiunse. «A me piaceva fino a poco fa. Forse la mia antipatia deriva dal fatto che ci sta rovinando la prima settimana del ritorno di Lucy, e anche da una cosa che ha detto il signor Beebe senza sapere nulla». «Il signor Beebe?» ripete la signora cercando di nascondere il proprio interessamento. «Non vedo come c'entra il signor Beebe. Sai com'è strambo a volte il signor Beebe quando non si è mai sicuri di avere capito bene le sue parole. Ha detto, il signor Weiss è lo scapolo ideale». «Dio, sono stato astutissimo. Gli ho chiesto cosa voleva dire e lui somiglia a me, sta meglio scompagnato. Non mi è riuscito di fargli dire altro, ma questo mi ha dato da pensare. Da quando Cecil si è messo dietro a Lucy, non lo trovo più così divertente, o almeno non so spiegarmi». «Può andare così?» ricominciò sua madre. «Gentile signora Weiss, Cecil mi ha chiesto ora il mio consenso e io glielo darò ben volentieri, se Lucy lo desidera. E poi ci ho aggiunto sopra, e l'ho detto anche a lei, bisognerà che riscriva la lettera, e l'ho detto anche a lei, ma Lucy sembra assai incerta, e oggigiorno i giovani debbono decidere per conto loro. Questo l'ho messo perché non vorrei che la signora Weiss ci giudicasse gente all'antica. Non perde mai una conferenza e bada solo a coltivarsi la mente, e intanto sotto i letti di casa sua si accumulano gli strati di laniccio e i punti dove si accende la luce elettrica sono imbrattati dalle ditate delle cameriere. La signora Weiss tiene quell'appartamento in maniera obbrobriosa. Nel caso che sposasse Cecil, Lucy starebbe in un appartamento di città o in campagna? Risparmiami le tue sciocche interruzioni. Dunque, dove ero arrivata? Ah, sì, dunque i giovani debbono decidere per conto loro. So che suo figlio le piace perché lei mi racconta sempre tutto, e la prima volta che lui la chiese in sposa me lo scrisse da Roma. No. L'ultima frase sarà meglio che la cancelli, sembra che voglia darmi tono. Finirò così: perché lei mi racconta sempre tutto. Ma forse dovrei cancellare anche questa. Cancella anche questa, disse Freddy. La signora Honeychurch ce la lasciò. Dunque, in definitiva, ecco come viene fuori. Gentile signora Weiss, Cecil mi ha chiesto or ora il mio consenso e io glielo darò ben volentieri se Lucy lo desidera e l'ho detto anche a lei, ma Lucy sembra assai incerta e oggigiorno i giovani debbono decidere per conto loro. So che suo figlio le piace perché lei mi racconta sempre tutto, ma non so... Attenta! Gridò Freddy. Le tende si scostarono. Il primo gesto di Cecil fu di irritazione. Non poteva soffrire quell'abitudine degli Honeychurch di stare al buio per proteggere i mobili. Impresse istintivamente una tirata alle tende e le fece scorrere indietro fino in fondo. Entrò la luce. Comparve alla vista una terrazza più o meno uguale a quella di tante ville, con alberi su ciascun lato e la superficie parzialmente occupata da una panchina rustica e da due aiuole. Ma la trasfigurava il panorama che si godeva di lassù, giacché Windy Corner sorgeva sulla catena dei colli che domina il Weald del Sussex. Lucy, seduta nella panchina, sembrava sull'orlo d'un verde tappeto magico che oscillasse nell'aria sovrastante il tremulo mondo. Cecil mise piede nella stanza. Dato che Cecil appare uno stadio così avanzato della nostra narrazione, occorre descriverlo immediatamente. Era medievale, simile a una statua gotica. Alto e raffinato, con due spalle che parevano mantenute in squadra mediante uno sforzo della volontà e una testa leggermente rialzata rispetto al livello normale dello sguardo, ricordava quei santi schizzinosi che custodiscono i portali di una cattedrale francese. Colto, versatile e non difettoso fisicamente, rimaneva nella morsa di un certo demonio che è noto al mondo moderno col nome di egocentrismo e che quello medievale, dalla vista più confusa, venerava col nome di ascetismo. Una statua gotica implica il celibato, proprio come una statua greca implica il godimento delle cose terrene, e forse era questo che aveva voluto dire il signor Bede. La signora Honeychurch lasciò la lettera sopra la scrivania e mosse incontro al suo giovane conoscente. «Oh, Cecil!» esclamò. «Cecil, dimmi, dimmi!» «I promessi sposi!» egli rispose. Madre e figlio lo fissarono ansiosamente. «Lucy acconsente essere mia moglie!» annunciò Cecil. E il suono delle proprie parole in inglese lo fece arrossire e sorridere dalla contentezza e apparire più umano. «Sì, il benvenuto nella nostra famiglia», soggiunse la signora Honeychurch, sventolando la mano verso i mobili. «Questo è davvero un giorno di letizia. Sono sicura che renderai felice la cara Lucy». «Lo spero», rispose il giovane, levando gli occhi al cielo. «Noi madri», cinguettò la signora, ma subito si avvide di essere affettata, sentimentale e retorica, tutte cose che detestava in special modo. Perché non poteva comportarsi come Freddy, impalato in mezzo al salotto con un'aria offesissima, che lo rendeva quasi bello? «Ehi, Lucy!» chiamò Cecil, giacché la conversazione minacciava di languire. Lucy si alzò dalla panchina, percorse il prato e si affacciò nel vano della porta finestra, sorridendo ai presenti, proprio come avrebbe sorriso per invitarli a giocare a tennis. Poi vide la faccia di suo fratello, dischiuse le labbra e lo strinse fra le braccia. Freddy disse: «Coraggio e sangue freddo». «Niente baci per me?» chiese sua madre. Lucy baciò anche lei. «Vorresti accompagnarli in giardino e raccontare ogni cosa alla signora Honeychurch?» propose Cecil. «Io mi trattengo qui per dare la notizia a mia madre». «Noi andiamo con Lucy», disse Freddy nel tono di chi prende ordini. «Sì, voi andate con Lucy». Il terzetto entrò nella luce del sole. Cecil lo seguì con lo sguardo, lo vide attraversare la terrazza, scendere i gradini e sparire. Avrebbe proseguito la discesa, lui sapeva da dove sarebbe passato, oltre il boschetto e oltre il campo da tennis e l'aiuola delle dahlie, finché non fosse giunto all'orto e laggiù, in presenza delle patate e dei piselli. Sarebbe stato discusso il grande evento. Con un sorriso indulgente, Cecil accese una sigaretta e riesaminò gli eventi che erano sfociati in una così felice conclusione. Conosceva Lucy da parecchi anni, ma soltanto come una ragazza qualunque che per pura combinazione possedeva un talento musicale. Rammentava ancora come si era sentito giù di spirito quel pomeriggio a Roma, quando lei e la sua terribile cugina gli erano piombate tra capo e collo con la pretesa di essere condotte a San Pietro. Quel giorno gli era parsa la tipica turista, concitata, acerba e disfatta dal viaggio. Ma l'Italia aveva operato una straordinaria metamorfosi nella ragazza. L'aveva dotata di luce e, dono ancora più prezioso, l'aveva dotata di ombra. Presto Cecil scoprì in lei una reticenza incantevole. Sembrava una donna di Leonardo da Vinci, che non amiamo tanto per se stessa, quanto per i segreti che si rifiuta di rivelarci. Segreti che non pertengono sicuramente alla vita terrena. Nessuna donna di Leonardo potrebbe avere qualcosa di così volgare come una storia. Giorno per giorno Lucy andò evolvendosi mirabilmente. Ecco quindi che dalla cortesia non immune da sufficienza, Cecil era passato lentamente, se non proprio alla passione, perlomeno a una profonda inquietudine. Già a Roma le aveva lasciato capire che loro due potevano essere fatti l'uno per l'altra, ed era rimasto grandemente commosso quando Lucy non gli aveva voltato le spalle in seguito all'insinuazione. Il rifiuto era stato chiaro e garbato, dopodiché, per usare l'orribile luogo comune, il suo atteggiamento verso di lui non era mutato per niente. 3 mesi dopo, sul lembo estremo d'Italia, in mezzo alle Alpi rivestite di fiori, Cecil le aveva chiesto nuovamente di sposarlo nel nudo linguaggio tradizionale. Allora Lucy gli ricordava un Leonardo più che mai. Nell'udire le sue parole si era girata. Era rimasta ferma tra lui e la luce, con sterminate pianure dietro di sé. Cecil l'aveva riaccompagnata all'albergo, imperterrito, senza sentirsi affatto nello stato d'animo dell'innamorato respinto. I valori che contavano sul serio restavano inconcussi. E così adesso le aveva chiesto di sposarlo ancora una volta e Lucy aveva risposto con un sì chiaro e garbato come i 2 no precedenti, senza offrire timide spiegazioni del lungo rinvio, ma dicendo semplicemente che lo amava e che avrebbe fatto quel che poteva per renderlo felice. Anche la madre di Cecil sarebbe stata contenta. Gli aveva consigliato di compiere quel passo. Il giovane si disse che bisognava le scrivesse un resoconto esauriente. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.